I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sono giornate complicate, diciamo così, per i mercati finanziari. Tante incognite diverse tra loro, però intrecciate l'una all'altra. C'è ovviamente la questione greca, ma si fanno sempre più sentire le preoccupazioni per il crollo della borsa cinese. Basti dire che in un anno Shanghai ha guadagnato il 155% e ora in poco meno di un mese ha perso oltre il 35%. La Cina è lontana, si può dire, ma meno di quanto si pensi. Ieri, per esempio, i titoli del lusso, anche quelli italiani, hanno segnato pesanti perdite perché, questo è un altro motivo di preoccupazione, le difficoltà della borsa cinese potrebbero essere determinate non solo da una bolla finanziaria, ma anche da un rallentamento della principale economia asiatica, con ripercussioni che sono facili da capire se si pensa che, ad esempio, nel settore del lusso, ormai un acquisto su tre è fatto da un consumatore cinese. Timori di rallentamento della crescita arrivano anche dagli Stati Uniti, che evidentemente stanno soffrendo più del previsto per il rafforzamento del dollaro. Sullo sfondo poi le crisi geopolitiche, l'ISIS, il terrorismo internazionale, la questione russo-ucraina, tutto pesa sui mercati. Insomma, non un gran momento. Il fatto che i fronti aperti siano così numerosi non aiuta certo a tranquillizzare gli animi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. 3.900 miliardi di dollari persi in un solo mese, 18 miliardi di dollari di azioni comprate con soldi a prestito, vendute in pochi giorni. Che cosa sta succedendo in Cina, visto che oggi c'è un grande rimbalzo dei mercati finanziari? Sta succedendo che fare economia di mercato ed un'economia guidata da un governo comunista è molto difficile. Il governo ha cavalcato la corsa alla borsa, ai mercati finanziari da parte dei cittadini cinesi e con un risultato che è quasi paradossale. A tutt'oggi ci sono 90 milioni di investitori individuali in Cina, una cifra che è superiore di quasi 10 milioni al numero di iscritti al Partito Comunista. Un sorpasso, se per così dire, storico. Ci sono più persone che giocano in borsa di persone che hanno la tessera con la faccia del martello e la tessera rossa. Ma si potrà uscire da questo tunnel? Sarà un percorso molto lungo. La borsa cinese, malgrado i ribassi dell'ultimo mese, è ancora in rialzo di quasi il 120% sui livelli di inizio anno. Una corsa senza freni che è derivata da che cosa? Da questa voglia di speculazione e voglia di moltiplicare il proprio reddito. Ma il pensiero che bisogna sempre fare in questi casi è uno: c'è un'economia al di sotto della borsa che può reggere quelle valutazioni? È molto difficile dirlo, e soprattutto quello che sembra che c'è stata una grande sopravvalutazione non soltanto della capacità delle imprese cinesi di produrre degli utili. Pensate che per avere un prezzo di borsa corrispondente agli utili che generano le imprese occorrerebbero più di 100 anni oggi per raggiungere quel prezzo. Beh, è un po' un dato eccessivo. Prudenza è l'invito non soltanto per i nostri risparmiatori, ma soprattutto per quelli cinesi, che evidentemente si sono fatti prendere da quell'esuberante euforia che negli anni 90 fece poi crollare la borsa americana. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.